Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e da parte mia anche un augurio di buon anno. L'abbiamo fatto nell'ultima puntata del 31, ma lo rifaccio volentieri oggi in diretta. Che dire, è iniziato bene l'anno, no? Nel senso che abbiamo un petrolio che, nonostante le tensioni, per essere quasi eufemistici, tra Iran e Arabia Saudita, continua a essere in calo, oggi a $33 al barile, 33,3 per quello che riguarda il WTI negli Stati Uniti, un calo del 2%, è il peggior inizio anno della storia del petrolio e è ai minimi il prezzo del greggio da 12 anni a questa parte. Tra l'altro, secondo la banca d'affari giapponese Nomura, il Brent, questo però vale anche per il WTI, sono i due tipi di petrolio che vengono trattati, uno è quello del Mare del Nord, il Brent, WTI, il West Texas Index, per cui è quello, diciamo, americano. Detto questo, per Nomura il Brent scenderà a $30 nei prossimi 10 giorni, ed è già sceso quello del paniere dei paesi OPEC sotto i $30, fino a $29,7 al barile, per la prima volta dal 5 aprile del 2004. Questo perché, secondo vari operatori, poi ne parleremo, perché più che le tensioni tra Arabia Saudita e Iran stanno pesando i dati che arrivano dalla Cina. E anche qui, insomma, l'anno è iniziato, come avete visto, oggi un'altra giornata di passione, questa mattina, soprattutto per le sospensioni delle borse, delle due borse cinesi, nel senso che sia Shenzhen che Shanghai sono state sospese per evitare, con il meccanismo introdotto in maniera provvidenziale per alcuni versi, proprio con il primo di gennaio, il blocco delle contrattazioni, dicevo sospese perché perdevano oltre il 7%, chiuse per intera giornata le due borse. Molti investitori e analisti hanno criticato la decisione, sottolineando che questa misura starebbe a dimostrare una mancata capacità di gestire la situazione da parte delle autorità cinesi. Tokyo ha chiuso con un calo del 2,3%, Hong Kong del 3%. Oggi, per quello che riguarda Milano, Piazza Affari a un certo momento è tornata anche sotto i 20.000 punti, quindi ai livelli di un anno fa, praticamente si era bruciato tutto il recupero e il rialzo che l'aveva vista tra le borse migliori in Europa. Adesso siamo a 20.200 punti, meno 1%. Milano, Francoforte perde il 2%, Parigi l'1,60, Londra meno 1,60, il Dow Jones cede lo 0,80%. Parleremo anche di questo, anche perché la Banca Mondiale ieri ha tagliato le stime di crescita per il 2016-2017 come conseguenza anche del rallentamento della Cina. Quindi non più 3,3% la crescita mondiale, ma 2,9% quest'anno, e l'anno prossimo crescita prevista al 3,1%. Preoccupato anche il filantropo miliardario, nonché grande speculatore valutario negli anni 90, mi riferisco a George Soros, il quale ha detto: attenzione, vedo delle similitudini con la crisi del 2008 in quella che è la bolla cinese, speriamo che si sbagli. Per quello che riguarda, quindi, parleremo di petrolio, di Iran e Arabia Saudita, ma anche di Cina. Poi i dati, invece, venendo all'Italia, i dati positivi che già ricordavano i nostri GR24, ossia la disoccupazione. Ora, abbiamo sempre commentato i dati, buoni o non buoni, deludenti, invariati, e lo faremo anche oggi. Il dato dell'Istat segnala a novembre meno 479.000 disoccupati, quindi il dato più basso dal novembre del 2012, come dato positivo, quindi il calo più forte di disoccupati che si attestano ai livelli del 2012, del novembre 2012, gli occupati a novembre 36.000 in più sul mese di ottobre, 206.000 in più gli occupati in un anno. La disoccupazione giovanile che scende al 38,1%, è il dato più basso dal giugno 2013. Aumentano i dipendenti, sempre da fonte Istat, i dipendenti a tempo determinato, permanente, le chiama l'Istat, cioè a tempo indeterminato, e invece calano quelli a termine. I dipendenti a tempo determinato sono cresciuti di 40.000 unità sempre a novembre rispetto a ottobre, quelli a termine sono diminuiti di 32.000 unità. Stante così le cose, sembrerebbe segnare che Jobs Act, ma soprattutto la decontribuzione che valeva fino a dicembre in quella formula, fino a 8.000 euro in un anno, poi il governo l'ha prorogata anche per il 2016 in legge di stabilità, però una cifra che è la metà, fino a 4.000 euro in un anno di decontribuzione, sembrerebbe funzionare, e ovviamente il governo plaude a questo e dice la disoccupazione continua a scendere, oggi all'11,3%, che è il dato di novembre, il minimo da tre anni a questa parte, è la dimostrazione che il Jobs Act funziona. Su questi dati e numeri si concentrano i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, oggi a firma del vice direttore Salvatore Padula. Ricordo che sono trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Oggi arrivano dall'Istat dati incoraggianti sul mercato del lavoro, che indicano un clima migliore rispetto alle ultime rilevazioni. Anzi, i dati sono tanto incoraggianti da meritarsi anche un tweet del Presidente del Consiglio. Renzi ha commentato scrivendo che la disoccupazione, che continua a scendere, a novembre è l'11,3%, livello più basso da tre anni a questa parte, è la dimostrazione che il Jobs Act, la riforma del lavoro, sta funzionando. C'è effettivamente un dato importante che forse può restituire un pizzico di ottimismo: l'andamento del numero di persone occupate, di chi effettivamente lavora. Dopo due mesi negativi, a novembre gli occupati sono tornati a crescere, sono stati 36.000 in più rispetto a ottobre e circa 206.000 in più rispetto all'anno precedente. Il tasso di occupazione complessivo è cresciuto ed è arrivato al 56,4%. A che cosa è dovuta questa crescita? L'elemento più importante è l'aumento dei dipendenti con contratti stabili, il che ha una spiegazione ed è il segnale di come molte imprese che avevano in programma di assumere abbiano voluto beneficiare dell'esonero contributivo che concede alle imprese uno sconto fino a 8.060 euro all'anno per tre anni per le assunzioni fatte nel 2015. Da quest'anno il bonus si riduce a 3.250 euro per soli due anni. Per cui vedremo se i segnali incoraggianti giunti oggi dall'Istat verranno confermati anche nei prossimi mesi. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. E ne parleremo anche noi più avanti dei dati sulla disoccupazione. Ancora due notizie in breve: cala la disoccupazione in tutta l'Unione Europea, 19 al 10,5%, recuperato un punto percentuale di disoccupazione in 12 mesi, solo la Spagna comunque va meglio dell'Italia quanto recupero della disoccupazione, il dato è di Eurostat, quindi insomma è a livello europeo. Bene i dati sugli ordinativi all'industria in Germania, più 1,5%, a novembre una crescita superiore alle stime degli analisti. E allora, ricordando che 349-238-6666 anche nel 2016 è il numero per i vostri sms e per scrivere su WhatsApp, e poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Partiamo col primo tema, o meglio i primi due temi, perché si tengono abbastanza assieme anche se sono due aree geografiche completamente diverse. Mi riferisco alla Cina e quindi alla nuova svalutazione della banca centrale cinese dello Yuan, che questa mattina ha mandato a tappeto a KO i mercati, chiusi dopo neanche mezz'ora di contrattazione, e ricordavo le chiusure di Tokyo e Hong Kong e l'impatto che ha avuto sulle borse europee, che hanno un po' recuperato ma sono sempre in calo tra l'1,2 di Milano e il 2,2 di Francoforte, perché si fanno anche ragionamenti sui gruppi più esposti verso la Cina. Non è un mistero che i colossi automobilistici tedeschi, Volkswagen, BMW, sono molto esposti sul mercato cinese. Da noi si fa un ragionamento simile anche sui titoli del lusso. Tod's perde il 2,80%, ma non è l'unica, nel senso che anche Luxottica perde l'1,20%, Moncler si comporta in maniera diversa, più 1,5%. E poi avremo anche il tema legato al petrolio. Ringrazio e auguro buon anno chiaramente per averci raggiunto il collegamento al segretario generale di Assium Forex, Claudia Segre. Buonasera. Buonasera, buon anno. Nonché nota esperta anche dei paesi emergenti. La Cina, insomma, è un paese ampiamente emerso, oltre che emergente. Oggi la banca d'affari giapponese Nomura dice: attenzione, non è il momento di vendere, ma di comprare. Prevale la paura, ma tornerà la calma sui mercati. C'è una preoccupazione esagerata sui mercati, la volatilità è pazzesca, ma non c'è una debolezza di fondo. UBS, banca d'affari svizzera, dice: attenzione, si crescerà di meno, crescerà di meno la Cina, ma non c'è il rischio di una recessione mondiale. Anche nello scenario peggiore la Federal Reserve andrà avanti con un rialzo graduale dei tassi di interesse. Sul fronte opposto invece vediamo per esempio un personaggio come George Soros dire: qua ci sono le premesse per un rischio 2008, e poi i dati che ricordavo per quello che riguarda il petrolio, siamo scesi a livelli che non si vedevano da 12 anni. Ma insomma, le revisioni fatte ieri dalla Banca Mondiale, che ha tagliato le stime di crescita per via soprattutto della Cina. Allora, dottoressa Segre, quanto grave è la situazione? Perché i mercati hanno avuto una reazione a inizio anno, nella prima seduta di contrattazioni, molto molto nervosa. È sembrato ad alcuni che fosse anche molto emotiva, nel senso che la Cina stia rallentando e che non riesca a mantenere un tasso di crescita al 7%, che è il minimo ritenuto ottimale per la Cina, lo diciamo da mesi. Sì, infatti più volte abbiamo discusso ed è stato confermato dal premier cinese che anche l'obiettivo del prossimo piano quinquennale, che sarà definitivamente varato a marzo, è di un 6,5% per i prossimi 5 anni. Il problema è che l'immaturità, diciamo così, delle misure intraprese per il governo dei mercati in piena liberalizzazione da parte dei cinesi ancora oggi hanno mostrato il loro limite, perché c'è stata una riunione delle autorità di mercato che si è concluso con un niente, e proprio pochi minuti fa è stato cancellato il famoso circuit break, e quindi il blocco totale delle contrattazioni a fronte della perdita del 7%, che ha fatto rimbalzare anche i mercati europei. Infatti, come lei ha detto, il nostro mercato ha recuperato da un -2,75 a un -1,20. Quindi c'è un problema di queste famose prove di mercato capitalistico che continuano ad affliggere l'indecisionismo delle autorità di mercato cinesi, che vanno a pesare poi sull'esito dell'effetto domino sugli altri mercati, che sono già colpiti dal problema commodities e mercati emergenti. Quindi materie prime. Allora, restiamo un attimo sul meccanismo. Penso che sia la sospensione più veloce al mondo di un meccanismo che ha debuttato a inizio anno, ed è il meccanismo che bloccava in automatico le vendite, quindi le contrattazioni in generale, la sospensione automatica degli scambi, nel momento in cui c'era un eccesso di volatilità, che vuol dire anche un eccesso di volatilità verso l'alto, di acquisti, ma in questo caso ha riguardato chiaramente le vendite. Il meccanismo di fatto in automatico chiude la borsa per l'intera giornata, e stamattina è successo così: mezz'ora di contrattazioni e il meccanismo ha bloccato la borsa di Shenzhen e di Shanghai per l'intera giornata. Detto questo, insomma, cosa non funzionava nel meccanismo? Perché anche noi abbiamo uno stop loss, chiamiamolo così, per eccesso di volatilità. È che secondo lei, dottoressa Segre, è sembrato un metodo troppo automatico, troppo, diciamo così, freddo e poco, e che in qualche modo disegnasse le autorità di Pechino come incapaci di gestire volta per volta la situazione? Allora, diciamo che il sistema di circuit breaker c'è su molti mercati, c'è anche su quello americano, ma sono previste sempre delle sospensioni che possono essere di 15 minuti, che possono essere fino a quando la volatilità non rientra, ma una sospensione immediata e totale per un'intera giornata fa saltare tecnicamente tutti gli ordini che sono validi per quel giorno, nonché tutte relative, diciamo, limiti posti su gli altri ordini legati anche ad opzioni piuttosto che a future. Quindi, di fatto, tecnicamente gli operatori cinesi e gli stranieri che operano su mercato cinese sono lamentati che questa misura è irrazionale con quello che è poi l'esito degli ordini pendenti che rimangono pendenti con questa sospensione totale. E qui, ma non ha pesato, dottoressa Segre, più il fatto che sembrasse un modo per non decidere, per lavarsene le mani, cioè per dire noi non siamo in grado di gestire questa situazione, perché io capisco gli ordini che saltano, vabbè, uno se ne fa una ragione, è più forse il segnale politico che arriva, cioè un governo cinese che non è capace di gestire quello che sta avvenendo, di rassicurare il mercato, si affida a un meccanismo, a un automatismo e dà un'ulteriore sensazione di non sapere che pesci pigliare? Assolutamente, von Clausewitz diceva che fa più morti la politica, certe scelte politiche, che non le armi stesse, e in questo caso è proprio vero, cioè l'incapacità politica di prendere delle decisioni coerenti col funzionamento del mercato, cioè sospensioni temporanee e ripresa del mercato per ritestare gli ulteriori livelli di ribasso, ha creato questo caos e le proteste che si sono elevate, che li hanno costretti infatti nottetempo, anzi immediatamente, a cancellare questo provvigione, questo sistema. Allora, chi conduce questo programma, insomma, qualche crisi di borsa l'ha vista in questi 15 anni, quindi non è che uno si spaventi per una cosa del genere. Vorrei capire in prospettiva però qual è il suo orientamento, perché ricordavo prima dichiarazioni divergenti tra per esempio Soros e anche la valutazione della Banca Mondiale di ieri, e invece Nomura e UBS di oggi, cioè banche d'affari, una giapponese, l'altra svizzera, molto presenti su quei mercati. Secondo lei, al di là, diciamo, di questo nervosismo dovuto forse anche appunto all'inesperienza o alla goffaggine con cui hanno gestito le autorità cinesi il meccanismo di sospensione delle contrattazioni, secondo lei nel medio termine che cosa potrebbe succedere? Intanto, questa situazione è un doppio colpo da un punto di vista tecnico, vuol dire che riassorbirlo ci vuole più tempo e ci vuole anche una ripresa di consenso di investitori che non vogliono più saperne del mercato azionario, oppure si rifugiano evidentemente nelle solite scommesse che sono il dollaro americano, che sono i titoli governativi, che sono i titoli obbligazionari, diciamo, più sicuri con elevato rating. Detto questo, tecnicamente la borsa di Shanghai ha un grossissimo supporto a quota 3000, che è quello che da sempre è stato difeso negli anni dal governo e quindi che ritengo terrà, però qui devono chiarirsi su quello che vogliono fare, e senz'altro ribadisco, la crisi degli emergenti pesa sull'interscambio commerciale cinese e quindi non è una situazione che si ricuce nel breve. Anche un possibile recupero con i cambiamenti che ci sono stati ad esempio in Latin America ci vorranno 6 mesi, quindi questo doppio colpo secondo me tarda la fase di normalizzazione dei mercati di fronte a una divergenza dei tassi come scenario di base. Senta, però molti si chiedono ma che cos'è che ha fatto scattare questa, diciamo, ondata di vendite. Ripeto e torno all'inizio, lo sapevamo che c'era una Cina che rallentava, adesso vedo anche dichiarazioni del presidente della Federal Reserve di Richmond, Jeffrey Lacker, che dice una recessione nel 2016 potrebbe avvenire, non possiamo escludere, e ancora il cancelliere dello scacchiere, il ministro, diciamo, dell'economia britannico Osborne, che dice che il Regno Unito deve affrontare un pericoloso cocktail di rischi economici a partire dal rallentamento della crescita a livello globale. Cos'è che ha fatto scattare, non dico il panico, ma insomma, ci andiamo vicini. Distinguiamo, lo scenario di recessione con avvitamento dei mercati era, diciamo così, negli outlook di tutte le case estere per il 2017-2018. Le speculazioni che adesso girano su questa possibile spada di Damocle sono esagerate. Quello che c'è di vero è che sul mercato cinese il rischio di un'ulteriore svalutazione, come peraltro avvenuta dello yuan renminbi, quindi un'altra gamba svalutativa rispetto a quella di agosto, era attesa, e quindi qualcuno ha voluto portarsi avanti chiudendo le posizioni e facendolo evidentemente all'apertura dei mercati, proprio in un momento in cui invece si aspettava l'effetto opposto, cioè l'investimento delle liquidità inespresse che si erano create a fine d'anno. Quindi direi che c'è stato un fattore locale, domestico, che è stato esacerbato dall'incapacità politica di gestire la cosa. E sappiamo che tutto piace ai mercati tranne che l'incertezza. Mi scusi, però un'ultima cosa che non capisco. Allora, se Poteva essere un'occasione per comprare in Cina, invece si è fatto l'opposto, si è venduto. Sappiamo che i rendimenti dei titoli di Stato in Europa, in molti paesi, sono negativi o pari a zero. Il mercato azionario, insomma, preoccupa, come diceva lei, anche gli investitori. In America, sì, per carità, ha iniziato una politica lentissima di rialzo dei tassi di interesse, ma dove sta andando tutta questa liquidità? Infatti il problema è proprio questo, che chi è liquido in questo momento o resta liquido oppure fa scelte estremamente difensive, vedi il caso del rafforzamento dello yen oggi. Ribadisco il discorso delle vendite dei locali sulla loro divisa, perché sapevano che comunque si sarebbe operata una seconda gamba di svalutazione fatta sottovalutata dal governo, quindi secondo me le liquidità devono ancora esprimersi sui mercati, ma se c'è questa incertezza restano liquidi e sono rimangono sostanzialmente spaventate dallo scenario. Sì, che non c'entra nulla con la società liquida di Bauman, è proprio la liquidità monetaria, quella che resta sotto il materasso. Nessuno tocchi Bauman, esatto. Nel senso, la liquidità resta sotto esatto. Materassi enormi, visto l'ammontare che è in circolazione. Sicuramente dove non si sta investendo, visto che lei citava anche il tema delle commodities, è il petrolio, che anche oggi sui mercati, dell'altro aspetto di questo approfondimento iniziale, anche oggi sui mercati ha conosciuto nuovi minimi. E quindi, nel ringraziare Claudia Segre, passo al prossimo tema: petrolio. Sì, sicuramente non stanno comprando futures sul petrolio. Allora, cosa è successo oggi? Nonostante le tensioni tra Iran e Arabia Saudita, il prezzo del greggio ha continuato la sua discesa, come ricordavamo in apertura del programma. Si sta avvicinando sempre più alla soglia dei $30 al barile. Oggi il Brent ha viaggiato intorno ai $33, il WTI intorno ai $32.50. Siamo sui valori più bassi da 12 anni a questa parte. Ovvio che pesi la frenata della Cina e anche l'abbondanza dell'offerta mondiale. Tra l'altro la svalutazione del yuan è stata vista più volte come una Cina che prende atto di una frenata della sua economia più forte del previsto. Tra l'altro l'effetto delle tensioni in Medio Oriente è durato pochi giorni. Il petrolio medio dell'OPEC è già sui $30 al barile, e la domanda di greggio sta comunque diminuendo in Europa, è scesa del 20% in 10 anni, ma anche in Cina e negli Stati Uniti. Ora, tra l'altro, su questo vale anche la pena ricordare che, lo facciamo sempre ma lo ricordiamo anche stavolta, che tutto il calo del petrolio è stato innescato dal braccio di ferro che l'Arabia Saudita, a questo punto senza se e senza ma, assieme a Qatar e Kuwait, paese in cui alcuni sauditi sono, leggete anche oggi gli articoli sui giornali, sono finanziatori dell'ISIS in chiave antisciita, e qui lo dico per inciso anche gli Stati Uniti, visto che Kuwait, se non ricordo male, l'abbiamo salvato con la prima guerra del Golfo. L'Arabia Saudita ha un grosso rapporto con gli Stati Uniti, forse al di là del braccio di ferro dovrebbe far sentire la sua voce anche in chi finanzia con milioni e milioni di euro o di dollari al giorno i terroristi islamici. Ma dicevo, al di là di questa posizione ambigua insomma, dell'Arabia Saudita, del Qatar e di altri paesi, non è servita nemmeno la tensione tra Iran e Arabia Saudita. Il braccio di ferro iniziato quasi un anno fa dai sauditi per buttare fuori dalla produzione di petrolio chi lo produce, il cosiddetto shale oil americano, non sta funzionando a mio avviso, nel senso che l'America continua a produrre shale oil e nel frattempo l'Arabia Saudita e i paesi OPEC devono vendere un petrolio a $30, mettendo in ginocchio, se ho ben visto, paesi come il Venezuela, paese membro dell'OPEC, e la Russia, che esporta petrolio ma esporta soprattutto gas, il primo esportatore al mondo, e il prezzo del gas si lega da sempre, è parallelo a quello del petrolio. Presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, buonasera e buon anno anche a lei. Buonasera, buon anno altrettanto. Mamma mia, una voce che oggettivizza l'andamento del petrolio. Noi dovremmo essere intanto contenti perché, Tabarelli, insomma, paghiamo meno le importazioni, però mi dica una cosa, Insomma, l'OPEC non c'è più, secondo me, nel senso che quando i sauditi decidono il bello e il brutto, il bello e il cattivo tempo, si dice, dentro l'OPEC, portando tutti i paesi a vendere a $30, e mi sembra che non stiano vincendo la sfida con gli Stati Uniti di buttare fuori mercato per prezzi troppo bassi la produzione di shale oil, non capisco cosa serve più l'OPEC. Ma soprattutto, in realtà, l'assorbimento di una tensione enorme con la chiusura delle sedi diplomatiche tra Arabia Saudita e Iran è durato lo spazio di un mattino. Sì, anche se l'OPEC è l'organizzazione che ha sede a Vienna, dove si sono sempre parlati questi paesi, sono spesso stati in guerra per molti anni, l'Iran contro l'Iraq, adesso l'Arabia Saudita con dei problemi, ma l'Arabia Saudita ha parlato sempre con l'Iran dopo la rivoluzione del 79, che ricordo è una rivoluzione fatta da sciiti che vogliono esportare la cultura, l'Islam agli altri paesi del Golfo, insomma hanno degli obiettivi non solo interni, pertanto l'Arabia Saudita è sempre stata preoccupata, non solo nell'ultimo anno, negli ultimi due anni, di quello che accade in Iran. In realtà l'OPEC, secondo me, è un'organizzazione che serve proprio a garantire un filo diretto fra questi paesi che si massacrano spesso fra di loro. Speriamo che stanno usando lo Yemen come Francia e Spagna usavano l'Italia. Speriamo che non arrivi ad uno scontro diretto, altrimenti mi sa che è il momento di comprare il petrolio, perché se si dovesse interrompere il flusso, come fu ad esempio dopo il 1981, mm-hmm, quando scoppia la guerra Iran-Iraq, l'Iraq di Saddam Hussein vuole far guerra all'Iran su procura perché doveva fermarlo, l'Iran, mm-hmm, l'espansione minacciava, ecco, lì fu il grande shock petrolifero con i prezzi che schizzarono di tre volte. Se dovesse accadere la stessa cosa, perché da lì transita qualcosa come 18 milioni di barili al giorno di greggio, i prezzi sarebbero aumenti di quella. Allora, facciamo una cosa, Tabarelli, adesso io ho il metodo e la pubblicità, poi vorrei capire intanto, vista l'offerta, quant'è l'eccesso sull'offerta e le previsioni sui futures del petrolio. E poi una domanda, non lo so, la rivolgo a lei, facile, si fa per dire, come mai non vediamo nulla di tutto questo nei prezzi della benzina? Lo so, siamo sempre lì, però è la domanda che tutti poi si fanno. Benissimo, un petrolio a $30, la benzina è calata un po', pochino, ma insomma non sta incamerando secondo molti questo calo. Dopo il metodo e la pubblicità, 349-238-6666 per i vostri sms e per la pagina e per WhatsApp, scusatemi, poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. Allora, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, vedo molti messaggi anche stanno arrivando sia su WhatsApp che sugli sms al 349-238-6666 sul tema del petrolio, prezzo dei carburanti alla pompa e quant'altro. Allora, Tabarelli, vediamo di capirci, cioè gli analisti di Commerzbank si aspettano che il petrolio raggiunga i $60 entro dicembre 2016. Quelli di Goldman Sachs pensano che non supererà i $20. Detto così, sono capace anche io di fare un'analista. Uno dei due imbroccherà sicuramente. Manca lo scenario a 150. Vabbè, manca lo scenario a 150, manca anche lo scenario a 10, però insomma mi sembra che poche idee ma confuse. Le sue di previsioni, così, a questo punto purtroppo la lotteria c'è già stata, ma esiste sempre il lotto, ci giochiamo le previsioni a questo punto. Noi da circa tre mesi che continuiamo a dare un più 15 sul livello di partenza, perciò adesso... E che vuol dire in italiano? Più a $42 per l'anno prossimo, come media su quest'anno, ecco. Verso dicembre dovremo essere di nuovo a 45. Quindi lei, se ho ben capito, voi ritenete come Nomisma Energia che lentamente il petrolio si riporterà a un più 15% nell'arco dell'anno? Più 15 dollari. Più 15 dollari. Mi scusi, nell'arco dell'anno. Sì, questo come caso base, poi con delle forchette di più 20 e meno 20 da questo scenario base, perciò molto ampio. noto che tutti adesso sono diventati ribassisti, in particolare questa famosa banca di investimento che fino a due anni fa. Ma Goldman Sachs, lo dico con massimo rispetto, come si può dire, però insomma, Goldman Sachs fu quella che a agosto del 2008, due mesi prima dello scoppio della più grande crisi del 29 e del fallimento di Lehman Brothers, disse che il petrolio avrebbe raggiunto i 200, eravamo i 200, 200 dollari, crollò a 30. Oh. Se è così, poi rimbalzò. Sì, va bene. Era anche per levare un po' di questa aurea da sapientoni e da guru agli analisti delle banche d'affari. Detto questo, lei non teme che paesi come Venezuela ha un'inflazione al 150%, il PIL fa meno 10%. Il 98% dell'economia venezuelana dipende dalle esportazioni di greggio. Ma quanto ci metterà il Venezuela o anche la Russia a cercare di vendere petrolio comunque, non so come spiegare, senza stare dentro le produzioni dell'OPEC? Ma di fatto loro hanno sempre ricevuto quello che decideva l'OPEC. La Russia è molto più importante per la Russia il petrolio di quanto lo sia per il Venezuela, anche se insomma tutti e due è molto importante. Il Venezuela è sostanzialmente nel baratro, e proprio al di là del crollo del prezzo del petrolio, per questo paese in particolare, ma anche per altri, il petrolio è una dannazione, l'opposto di quello che è per la Norvegia, che è una benedizione. La Norvegia è il paese più ricco del mondo, e loro niente, poi il Venezuela fa parte dell'OPEC, come lo è la Nigeria, come l'Algeria, la Libia ahimè che non esiste più, però loro non hanno mai avuto grande ruolo, peso, come ha invece l'Arabia Saudita e a seguire l'Iran, assieme poi l'Arabia Saudita assieme agli altri moderati del Golfo, cioè Kuwait, Emirati Arabi Uniti. E niente, qua il problema è che di petrolio ce n'è troppo, è positivo, non dobbiamo vedere solo il fatto che il crollo del petrolio è una dannazione per questi paesi, il contrario, perché e quello che sta facendo la stessa Arabia Saudita in questo momento è di pensare con la nuova reggenza non solo all'esecuzione di prigionieri politici, che è un'aberrazione per noi, ma anche a riformare lo Stato interno, cioè a pensare a qualche forma di modernizzazione dell'economia. Addirittura si parla ad una quotazione della società più importante al mondo, che è l'Aramco. E pertanto il fatto del prezzo del petrolio più basso significa minori rendite, che sono quelle che introducono la malattia olandese, cioè quello che in un'economia dove c'è una rendita troppo facile non c'è bisogno di lavorare e perciò l'economia non si sviluppa, che è un po' anche il problema della Russia, troppo dipendente dall'esportazione di gas, di petrolio, di altre materie prime, che è il problema di molti paesi africani. E che pertanto con questo crollo questi paesi certamente soffriranno, ma avranno una ragione in più per distaccarsi da questa dipendenza, da queste facili entrate. Fra l'altro per noi è anche positivo, perché abbiamo visto in questi 10 anni di prezzi straordinariamente alti, molti soldi che fra l'altro paghiamo noi sono finiti nelle tasche di gruppi estremisti, non certo per loro volontà, ma comunque qualche briciola ci è arrivata e ha fatto molto male. Ecco, veniamo all'ultimo tema però, Tabarelli, il prezzo della benzina. Mi sta scrivendo su WhatsApp anche un imprenditore del settore plastica nel Vicentino, che dice: guarda che non è solo la benzina, ma anche le materie plastiche derivate dal petrolio continuano a crescere senza una giustificazione. Insomma, ma come mai non vediamo nulla di tutto questo? Abbiamo un petrolio che è ai minimi, a 30 dollari, prego. Guarda, guardavo il prezzo che abbiamo monitorato in questi giorni, che è intorno al gasolio, che è quello più consumato, è 1,20, 1,21, prezzo basso, e di questo il prezzo internazionale è 20 centesimi, 22 centesimi, più 16 centesimi di costi di distribuzione, il 67% sono tasse, quasi un euro, e pertanto cioè, la percezione del consumatore finale di questi crolli non c'è, perché è tutto smorzato da tasse. Io ricordo ancora quando era il governo Berlusconi, il vice ministro Valducci, se non ricordo male, propose di usare l'IVA in maniera anticiclica, cioè quando saliva il prezzo del petrolio si poteva ridurre l'IVA, quando scendeva si poteva aumentare. Nulla di tutto questo è stato fatto. Comunque Lei dice, siccome sono solo 20 centesimi più 12, 30 centesimi in tutto, capito bene? Sì, sono 40 centesimi sul gasolio e 50 per la benzina, al netto di tasse. Ma questo vale anche per le materie plastiche, mi scusi. Perché, Per le materie plastiche, man mano che ci allontaniamo dai prodotti più importanti, sono benzina e gasolio, le cose un po' cambiano, però anche, vale anche per loro, ecco. Il calo c'è stato anche nelle materie plastiche, adesso non so nel che periodo prendere riferimento, come c'è per i fertilizzanti, come c'è per il gasolio pesca o agricolo, come c'è per il bitume, per gli lubrificanti, tutta roba che finisce dentro l'economia e che avrà un effetto sicuramente deflattivo, se vogliamo, perciò negativo adesso si dice, ma estremamente positivo perché restituisce soldi ai consumatori. Sì, l'abbiamo visto sui prezzi della bolletta, secondo quanto ha dichiarato anche l'authority, non i prezzi della pompa, lo dico. Ma insomma, cioè, noi verifichiamo tutti i giorni, insomma, c'è il calo in corso, in queste ore stanno ripartendo, non sono ancora scesi, nei prossimi 2-3 giorni vedremo dei cali importanti. 2-3 centesimi almeno li vedremo, perciò chi deve fare il pieno aspetti qualche giorno. Sì, ho capito, cosa vai in giro a piedi nel frattempo. Sì, sono sempre stato attento a giro a piedi. Va bene, grazie di nuovo, buon anno a Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia Traffico. Grazie. Focus Economia. Abbiamo assistito al più breve, a mia memoria, collegamento sul traffico della storia di Radio 24. Va bene, vuol dire che la situazione è scorrevole. E andiamo adesso sulla borsa e poi faremo nella seconda ora il mercato del lavoro da un lato e l'indice, ho dimenticato di annunciare il tema, oggi presente su Sole 24 Ore, il Trade Performance Index, che come sempre analizza il professor Fortis, ossia dove i settori in cui l'Italia nel 2015 si è confermata più forte a livello di esportazioni. E allora buon anno anche da parte mia ai colleghi di Radio Cori, Sole 24 Ore, oggi nella persona di Ceo Condina. Buonasera Ceo. Ciao, buon anno a te, buon anno a tutti. La borsa, abbiamo dei motivi per cui la borsa è calata, abbiamo detto ampiamente nella prima mezz'ora del programma, Cina, sospensioni, Shanghai, Shenzhen, brutta chiusura a Hong Kong e a Tokyo. Devo dire che un pochino ha recuperato, il FTSE MIB è sceso anche sotto i 20.000 punti, si era praticamente mangiato tutto il rialzo del 2015, meno 1,14%. La chiusura di Milano, meno 1,19, quella di in questo momento è il calo di Wall Street, Francoforte meno 2,30, Parigi meno 1,70. È chiaro che il rallentamento cinese vuol dire poi penalizzare tutti i titoli più legati al settore dell'export, questo vale soprattutto per la Germania, Volkswagen, titoli automobilistici, BMW. Da noi hanno pagato le conseguenze i titoli legati al lusso, ma soprattutto, e qui vorrei iniziare con l'analisi, Buzzi Unicem meno 4,20%, Anima Holding meno 4, Fiat Chrysler meno 3,28 come Monte dei Paschi, Ferrari meno 3,25%, Tenaris meno 2,80 come Azimut e CNH Industrial meno 2,60%. Quindi risparmio gestito cemento e anche auto. Sì, diciamo che soprattutto auto, se consideriamo anche il peso di Fiat e di Ferrari, una nuova giornata molto difficile appunto per le quattro ruote a Piazza Affari, ma come dicevi tu anche per tutto il comparto europeo, sicuramente la peggiore è Buzzi, meno 4,1%, ma vanno anche segnalati i passaggi a vuoto delle banche con Unicredit e UbiBanca che cedono il 2,5%, tu citavi i titoli del lusso, qui oggi abbiamo visto un piccolo rimbalzo di questo settore che se andiamo a vedere era stato quello forse più penalizzato dall'inizio di questa piccola crisi di borsa, infatti possiamo ricordare come sia Ferragamo sia Tod's siano tra coloro che esportano più prodotti nel sud-est asiatico che potrebbero essere penalizzati da un possibile rallentamento della Cina. Ferragamo è stato il titolo più acquistato in questo finale di seduta in cui Milano ha di fatto dimezzato le perdite, ha chiuso un rialzo del 2,5%, bene anche Yux più 1,9%, anche Moncler ha comunque recuperato mezzo punto percentuale. Quindi il ragionamento che da noi sono stati penalizzati i titoli del lusso vale solo per pochi titoli, nel senso che poi vedi che Ferragamo, Jux e Moncler hanno chiuso in positivo. Diciamo che nelle ultime sedute hanno perso veramente tanto. Sì, e sì, oggi... è vero, Tozza ha fatto un altro meno 1,50 oggi. Però diciamo che si è concentrato soprattutto su automobilistici, per via anche dell'andamento tedesco. Poi abbiamo la pattuglia, il gruppo dei bancari, Unicredit meno 2,50 come UbiBanca, Mediolanum meno 2,30 come Popolare Emilia Romagna, Unipol meno 2,20%, chiudo con Mediobanca meno 1,90%, Pop Milano meno 1,70%, come Intesa San Paolo, il Banco Popolare perde l'1,40%. Sì, sulle banche Piazza Affari, ricordiamo che le banche pesano molto sul listino, quindi è chiaro che in una giornata di vendite, come comunque è stata questa, i titoli bancari vengano inevitabilmente colpiti. Un altro settore che invece oggi ha tra virgolette brillato è quello delle utility, anche qui un po' in scia a quello che è il settore europeo, infatti alcuni titoli come per esempio A2A o Enel Green Power si sono difesi, hanno recuperato quasi un punto percentuale, anche Snam è rimasta sopra la parità, così come Terna. Ecco, visto che citavi Snam, andiamo sul il gruppo Eni, non solo il titolo Eni, perché Saipem ha perso l'1,77% nel giorno in cui Eni ha comunicato che è scesa in Snam, tu citavi anche Snam, dall'8,5% al 4,9%, la quota di pertinenza di Eni. E allora Saipem, dicevo, meno 1,77%, Eni meno 0,76%, invece Snam ha chiuso poi invariata. Sì, su Saipem e su Eni hanno pesato per buona parte della seduta le quotazioni del greggio, che era sceso addirittura a $33, poi il greggio ha recuperato, infatti almeno Eni ha chiuso in ribasso di solo 0,7%. Per quanto riguarda Snam invece c'è un giudizio positivo da parte di Goldman Sachs, ma direi che per quanto riguarda la performance appunto di Snam c'è più da guardare l'andamento del settore europeo delle utility, che è stato come detto positivo, quindi Snam recupera lo 0,08%. Per quanto riguarda invece, tu citavi la riduzione, sostanzialmente Eni ha dimezzato la quota in Snam, tutto ciò è legato a un convertibile Eni in azioni Snam che scadeva a gennaio, di fatto diciamo che metà degli investitori hanno deciso di tenersi le azioni Snam e quindi Eni è sceso. Euro su dollaro a 1,08, migliori e peggiori della seduta oggi per quello che riguarda chiaramente Piazza Affari, Zucchi più 7% sui risparmi non convertibili, festeggerà Buffon oltre ahimè alla vittoria di ieri, Bioera più 5% del figlio. È la nascita del figlio, questo auguri, lui l'erede amico, Mondo TV più 5,40, RCS Media Group più 3,60%, fronte opposto, ti vedo preparato sul gossip comunque, Condina. Allora, no, più sul calcio. Clabo meno 11%, Trevi meno 10%, Ross meno 8,80%, Tech Value meno 6,80%. Grazie a ciò, Condina, grazie al decorso sulle 24 buona ore. Serata. Adesso andiamo a commentare i dati italiani sul mercato del lavoro, la pagina che segue e anche la successiva riguarderanno infatti l'Italia. Il tasso di disoccupazione, il dato è riferito a novembre, è diffuso oggi dall'Istat, scende ai minimi da 3 anni all'11,3%, vedo già moltissime critiche, lecca qualcosa del Presidente del Consiglio, dati falsi, mentre vedo anche molti messaggi che citano una benzina che è scesa e un gasolio che sono scesi, ne cito uno su tutti, molti hanno fatto il pieno o comunque il rifornimento dove c'è uno sconto dentro i grandi centri commerciali, però mi segnalano uno ascoltatore, l'ultimo che ha scritto al gigante di Trecate a Novara, a 1,138 euro il gasolio, non lo vedevo da anni sotto la quota 1,15. Comunque, parliamo adesso di dati su disoccupazione e occupazione. Certo che tifo per l'Hellas Verona, me lo chiede un ascoltatore, è ovvio, la battuta l'ho fatta mica per caso. Allora andiamo avanti con invece i dati sulla disoccupazione. 11,3% ai minimi da 3 anni, sono dati ancora provvisori, però insomma le persone in cerca di occupazione sono 2.871.000, 48.000 su ottobre, in meno su ottobre, e 479.000 in meno sul novembre del 2014. Questi sono i disoccupati in meno, 480.000 rispetto a un anno prima. Gli occupati, cioè tutti quelli che lavorano anche rispetto a chi non lo sta cercando un lavoro, ripeto, ogni volta la disoccupazione fotografa solo chi non riesce a trovare un lavoro tra chi lo cerca. L'occupazione invece fotografa chi lavora tra tutti quelli che potrebbero lavorare, inclusi quelli che non lo stanno cercando. Tipicamente alcune categorie, ahimè, che smettono di cercare lavoro oppure decidono come scelta volontaria di non cercarlo e fare altro. Gli occupati sono saliti di 36.000 a novembre su ottobre, di 206.000 in un anno, tant'è che l'occupazione complessiva è cresciuta. I disoccupati giovanili sono calati del 38,1%. Infine, la crescita dell'occupazione a novembre è determinata soprattutto dall'aumento dei tempi indeterminati. Calano i tempi i tempi determinati. Scusatemi, a tempo indeterminato sono cresciuti i contratti sono cresciuti di 40.000 unità rispetto a ottobre, quelli a tempo determinato sono calati di 32.000. Ovviamente con un tweet il Presidente del Consiglio dice la disoccupazione all'11,3% è la prova che il Jobs Act funziona. Io chiedo, come riconosco da sempre la sua grande capacità di essere obiettivo, chiedo al Professor Della Ringa di iniziare l'analisi, poi la continueremo dopo il GR24. Carlo Della Ringa, economista del lavoro alla Cattolica di Milano, ex sottosegretario del lavoro e attualmente deputato del PD. Buonasera professore. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora, questo è un dato incontrovertibile, ma più che il Jobs Act pesa la decontribuzione. Sono due cose diverse. La decontribuzione è partita dal 1 gennaio ed è finita con dicembre in quella formula. Si arrivava a risparmiare per un'impresa fino a 8.000 euro all'anno di minori contributi che pagava lo Stato. Quest'anno è stata prorogata, ma per la valore della metà. Il Jobs Act invece è partito a marzo e resterà in vigore come legge finché qualcuno non la cambia. Cosa ha pesato di più? Ma certamente la decontribuzione è quella che anche le stesse imprese sostengono essere stata decisiva per indurre a spostare la cosiddetta domanda di lavoro da contratti a termine a contratti a tempo indeterminato, però hanno apprezzato anche questa maggiore flessibilità nell'entrata e uscita dei dipendenti, perché il rapporto di lavoro non diventa più come un matrimonio indissolubile come era fino a poco tempo fa, ma una volta che si è verificata una mancanza di fiducia si può interrompere, anche questo ha giocato, ma non c'è dubbio che la forte decontribuzione sia stato il fattore determinante. Quindi in questo mese diciamo è positivo perché finalmente si vede un travaso dalla disoccupazione all'occupazione, che è quello che uno si aspetta quando le cose vanno bene. Ricordiamoci che è un mese positivo che segue a due mesi molto negativi. Quindi insomma dobbiamo rallegrarci, ma sappiamo che questi dati mensili dell'Istat sono come le montagne russe, un po' si va su, un po' si va giù. Siamo nel mese che si va su e quindi prendiamo quel buono che viene. Sì, si va su soprattutto rispetto a un anno prima. Adesso, siccome alcuni dicono ma un deputato del PD non è molto neutrale, io infatti ho detto che lei è deputato del PD, invece riconosco che tutte le volte che ha analizzato i dati, anche quando erano deludenti, l'ha sempre ammesso. Era ottobre il mese, non mi ricordo se fosse ottobre il mese in cui arrivavano dei dati veramente, veramente certo, deludenti, per cui io non ho nessun problema a rinvitarla. Detto questo, quando potremo mettere la parola fine, inteso come analisi, al 2015? Perché appunto ottobre fu una doccia fredda, novembre tutto bene, la disoccupazione è scesa. Cosa aspettiamo? Il consuntivo dell'Istat sul 2015? Beh, ci manca un mese ormai, quindi potremmo cominciare già a farlo. E quindi diciamo che il tendenziale parla di un aumento dell'occupazione di circa 200.000 unità, che per un tendenziale del PIL non particolarmente esaltante, 200.000 posti di lavoro in più sono buoni, sono decisamente buoni. ci avviciniamo a quell'1% che quasi quasi nemmeno il PIL ha raggiunto in questo stesso intervallo di novembre su novembre. Sì, devo dire che Eurostat oggi segnala come l'Italia dopo la Spagna è il paese con il dato migliore sulla disoccupazione e occupazione. Resti con noi della Ringa dopo il GR24 349-238-6666 per gli sms e WhatsApp e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia e stavamo commentando con il professor della Ringa, nonché deputato del PD ed ex sottosegretario del Ministero del Lavoro, i dati sulla disoccupazione e l'occupazione di oggi. Ricordo, per chi si fosse perso la prima ora del programma, disoccupazione a novembre all'11,3%, tocca i minimi da 3 anni contro l'11,5% di ottobre e tocca i minimi dal novembre del 2012. Sono state rispetto a un anno prima 479.000 le persone in meno a cercare un'occupazione. Buono il dato anche sugli occupati, più 36.000 rispetto a ottobre e più 206.000 rispetto a un anno prima. Disoccupazione giovanile che è in calo al 38,1%, aumentano i contratti a tempo indeterminato, calano quelli a tempo determinato. Al di là delle dichiarazioni del Premier Renzi e del Ministro Poletti, qual è il dato che a lei non convince, ma insomma, qual è il dato che lei ritiene più significativo della Ringa tra quelli che ho ricordato? Anche perché, come lei stesso sottolineava, a ottobre abbiamo commentato un dato completamente diverso. Ecco perché invitiamo tutti, il governo e gli ascoltatori, a un po' di cautela. Sì. Quello che convince meno di questi dati, ma che sono poi quelli dell'Istat mensili, è questi alti e bassi. Ricordiamo che in agosto addirittura 0,5 punto percentuale in più. Poi abbiamo avuto 2 mesi, settembre-ottobre, con 0,2 in meno, settembre 0,2 in meno a ottobre. Adesso abbiamo un più 0,2. Questi zeri, che sembrano cose da poco, però sono 40-50 mila occupati in più o in meno da un mese all'altro. E quindi questo sorprende come questi dati siano così poco stabili. Io facevo sempre riferimento ai dati sugli occupati statunitensi. Lì basta che ci siano 7-8 mila occupati in più e in meno rispetto alle previsioni che subito la borsa balla. Qui si parla di 40 mila in più, 40 mila in meno senza che succeda nulla, a parte i commenti che si fanno, cioè un mese negativi e un mese positivi. Io credo veramente che questi dati abbiano bisogno di una certa revisione e fa bene il governo, devo dire in questo caso fa bene, a istituire presso il Ministero del Lavoro una unità di rilevazione e riflessione che mette insieme l'INPS, il Ministero del Lavoro, l'Istat, per cercare di dare unitarietà a questi dati, anche per una loro corretta lettura. Ne dico una per tutte. Mentre l'INPS ci dice che addirittura i contratti a tempo indeterminato in un anno sono aumentati di 300-400 mila unità, l'Istat anche oggi, sì, oggi dice che sono aumentati di 40 mila, ma dopo che nei mesi precedenti dicevano che erano diminuiti. Quindi anche l'effetto del Jobs Act, di cui tanto si parla, è un effetto che viene rilevato in modo tutto sommato piuttosto diverso dall'Istat e dall'INPS. Cioè l'INPS dà dei dati molto positivi sull'aumento dell'occupazione stabile, ma l'Istat tutto sommato in questi primi 10 mesi ci parla di un 40-50 mila, primi 10 mesi, 11 mesi con novembre, di 40-50 mila posti in più permanenti, 140 mila in un anno, ma mette insieme anche il 2014. Se parliamo del 1 gennaio, come lei diceva prima, da quando ci sono le decontribuzioni e poi il nuovo Jobs Act, i contratti a tempo indeterminato rilevati dall'Istat sono tutto sommato un po' deludenti, mentre sono buoni quelli sull'occupazione complessiva, che parliamo di 200.000 unità. Da qui farei questa osservazione di carattere generale, perché altrimenti ogni mese siamo costretti a dire buono sì, poi il mese dopo cattivo, insomma anche i nostri commenti vanno un po' sulle montagne russe in questo sì, caso. Sì, dando gioco facile ad alcuni ascoltatori che vedono in un commento positivo certo. Cioè, il fatto che il conduttore si schieri pro Renzi, in un commento negativo che si schieri contro Renzi, nulla di tutto questo, però ho gioco facile nel ricordare che fu proprio il Sole 24 Ore, attraverso un appello dell'economista Ricolfi, a chiedere in tempi non sospetti, quando iniziarono ad arrivare i primi dati, non si capiva nulla, era prima dell'estate, non si capiva nulla proprio per quello che ricordava lei, che erano discordanti, a dire si può mettere fine all'embargo sui dati, trovare un'unica fonte, perché pure noi impazziamo, c'è l'Istat, c'è il Ministero del Lavoro e c'è l'INPS, ci fosse una volta che i dati sono confrontabili, nel senso, come ricordava anche lei, non tanto sul segno più, sul segno meno, quanto sull'ammontare di questo segno più e questo segno meno. Speriamo che adesso, una volta si chiamava cabina di regia, cabina di diffusione dati, chiamatela come volete, permetta di commentare un unico dato e non, e anche noi elevi un po' dalla difficoltà anche chi vi parla, perché ogni volta no, bisognerebbe spulciare tra le righe. La UIL oggi sostiene che i dati di Istat confermano la marcia da tartaruga, perché sono solo 70.000 posti fissi in più. Ecco perché appunto chiediamo, invece che diciamo, un commento così veloce, un dato una volta sola, piuttosto aspetterà l'Istat, aspetterà l'INPS, si incontrino, trovino un modo per fornire un dato omogeneo e noi commenteremo il dato omogeneo. Grazie anche al professor Carlo Della Ringhe, buon anno anche a lei. Buon anno a tutti. Sì, fanno notare alcuni di voi, è vero che ieri è uscito un dato, non è un dato diciamo sul mese di novembre, ma in cui si sottolineava come poco più della metà dei laureati italiani, il 53%, risulti occupato entro i 3 anni dalla laurea, ed è il dato peggiore nell'Unione Europea dopo la Grecia. Per i diplomati la situazione però è peggiore, solo il 30% risulta occupato a 3 anni dal titolo, il 40% nei diplomi professionali. Qui c'è il tema chiaramente del mercato del lavoro, ma anche il tema di quello, però ci potrebbe troppo in là, delle scelte che si sono fatte in questi anni quanto a lauree brevi, e anche perché non possiamo non guardare che per la prima, o non notare che per la prima volta quest'anno le matricole di corsi di laurea scientifici hanno superato quelle dei corsi di laurea umanistici. Io non voglio dare un giudizio, però lo do alla fine, bene così, perché sappiamo che lì c'è più fame di posti di lavoro, ce n'è meno, ogni volta mi insultate in chi fa scienze della comunicazione, con tutto il rispetto per le scienze della comunicazione, per chi vi insegna e per chi vi studia, però insomma evidentemente anche le matricole e i giovani hanno capito che conviene iscriversi là dove c'è domanda di lavoro. So che sembra una banalità, ma non è stato così, per tanti motivi che molte volte abbiamo analizzato. Ora non ce la facciamo come tempi, non come testa, forse anche come testa, ma sicuramente non come tempi. Perché vorrei invece spostarmi all'ultimo tema. Ogni anno viene pubblicato dall'Agenzia Congiunta dell'ONU e dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio, del WTO, la classifica sull'International Trade, il cosiddetto International Trade Center. Questa è l'agenzia congiunta tra ONU e WTO che fa la classifica della competitività dei vari paesi nel commercio mondiale. Il dato è ancora sul 2014 purtroppo, però ce la dice lunga sulla capacità o meno che possono avere le nostre imprese, i nostri sistemi di impresa di esportare. Professor Marco Fortis, che è firma del Sole 24 Ore, docente di economia industriale all'Università Cattolica di Milano e vicepresidente della Fondazione Edison, buonasera. Buonasera. Allora, ci dica prima del traffico come ci siamo collocati anche nell'ultima diciamo classifica dell'International Trade Center, e poi dopo il traffico andiamo ad analizzare i vari settori produttivi. Sì, è una classifica che si riferisce appunto al 2014, sì. Peraltro i dati sono molto recenti, perché per poter fare una classifica su 189 paesi ci vogliono alcuni mesi, E qui l'Italia su 14 settori del commercio mondiale nel 2014 ha confermato le sue prime tre posizioni nell'abbigliamento, nei prodotti in cuoio, nel tessile, prodotti tradizionali, ma soprattutto ha conquistato 5 secondi posti immediatamente dietro la Germania su 189 paesi nella meccanica non elettronica, cioè gli apparecchi, le macchine industriali, nei mezzi di trasporto, nei manufatti di base che comprendono metalli, ceramiche e nei manufatti diversi che comprendono per esempio occhialeria, prodotti in materie plastiche. Un piazzamento che si completa poi anche con un secondo posto negli apparecchi elettrici ed elettronici, tra cui gli elettrodomestici, e un sesto negli alimentari trasformati. Allora, tutta la classifica e l'analisi dettagliata la trovate oggi sul Sole 24 Ore, nelle pagine dei commenti e delle inchieste, però dopo il traffico vorrei appunto andare sui singoli settori. Lei parlava spesso di medagliere, se non ricordo male, oro, argento, bronzo, ed erano 100 i prodotti in cui a livello mondiale noi ci collocavamo o al primo o al secondo o al terzo posto. Qui parliamo più di settori che di singoli prodotti, però vale la pena ricordarli anche per questa classifica. Dopo il traffico, 349-238-6666 per sms, whatsapp e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. Allora, vediamo, professor Fortis, i settori in cui ci collochiamo al primo posto, ma anche il confronto tra Germania, Cina e Stati Uniti. Prego. Beh, dunque, il settore che in assoluto è più importante per noi e che si trova al secondo posto dopo la Germania è quello della meccanica non elettronica, che ha fatto nel 2014 un export di 108 miliardi di dollari, con un surplus commerciale, si badi bene, di 72 miliardi di dollari. Quindi è un settore dove siamo estremamente specializzati e dove l'Italia ha superato in molti campi, dalle macchine per imballaggio a molte macchine utensili, anche la Germania negli ultimi tempi. E questo è anche uno dei settori che ha il maggior numero poi di prodotti in cui siamo nei primi, secondo, terzo posto a livello internazionale. Poi molto interessante è vedere intanto che nonostante la perdita dei prodotti a più basso valore aggiunto nel tessile, nell'abbigliamento, nelle calzature, nella pelletteria, l'Italia rimane comunque ai vertici dei prodotti di lusso e di grande diciamo fama mondiale attraverso i nostri marchi in questi tre settori. E soprattutto quindi siamo al primo posto anche come tessile, prodotto in cuoio e abbigliamento. Sì, esattamente, dove qui abbiamo delle esportazioni, dei surplus commerciali rilevanti. Oltre quasi 8 miliardi di dollari nell'abbigliamento, quasi 5 nel tessile e circa 12 e mezzo nei prodotti in cuoio e calzature. Poi interessantissima soprattutto l'ascesa degli ultimi anni dei mezzi di trasporto. Siamo secondi a livello mondiale dopo la Germania. Sì, come si spiega questo? Perché tutti sono abituati a pensare magari alla crisi dell'auto solo recentemente riscattata con il grande recupero della Fiat, ma in realtà abbiamo nei mezzi di trasporto la leadership negli yacht di lusso, la leadership negli elicotteri, la leadership anche nelle navi da crociera, numerosi posizionamenti importanti anche nei cicli e nei motocicli. Quindi complessivamente, se ci aggiungiamo anche il forte recupero dell'automobile italiana, il rilancio della Fiat, il boom della Ferrari, si capisce come nel complesso in questo settore ci posizioniamo piuttosto bene. Un altro campo in cui siamo cresciuti. Si faccio notare che sui mezzi di trasporto la prima è la Germania, la seconda è l'Italia, gli Stati Uniti sono al 33esimo posto, la Cina al 27esimo. Lei citava la meccanica non elettronica in cui siamo secondi dopo la Germania, ma anche sui componenti elettronici siamo secondi dopo la Germania. Sì, e qui la denominazione dell'International Trade Center è componenti elettronici, ma in realtà si intende tutti gli apparecchi elettrici, anche per la trasmissione dell'elettricità, non solo i componenti elettronici, e poi sono inclusi anche gli elettrodomestici, dove comunque l'Italia, nonostante diciamo la perdita di competitività di alcuni segmenti del bianco, diciamo basici, conserva ancora importanti posizioni di leadership, soprattutto poi anche nelle apparecchiature elettriche, degli strumenti che riguardano la distribuzione dell'elettricità. Quindi nel complesso direi che nel settore meccanico, considerando apparecchi elettrici e anche il posizionamento nella meccanica e non elettronica, l'Italia ha un posizionamento rilevante che si completa poi con i prodotti in metallo, che sono diciamo tutte quelle produzioni che spaziano dalle catene alle infrastrutture metalliche per l'edilizia, agli attrezzi semplici in metallo, in cui anche lì siamo secondi soltanto alla Germania. E faccio notare che invece nel settore alimentare, le note dolenti a mio avviso sono, nel settore alimentare sugli alimenti freschi siamo 33esimi, la Germania è 25esima, gli Stati Uniti quinti, ma anche sugli alimentari trasformati noi siamo sesti e la Germania è prima. A dimostrazione, sì. Noi l'abbiamo raccontato più volte, però la Germania esporta più di noi, il doppio di noi in prodotti alimentari, in anche se uno potrebbe restare basito. Qui c'è il problema, e lo dico perché ne parleremo anche più avanti, della dimensione delle nostre imprese e della capacità di presidiare i mercati. È una battaglia che portiamo avanti, c'è la tutela del Made in Italy, c'è l'Italian Sounding, però poi bisogna anche dirsela tutta. Se le imprese non acquisiscono certe dimensioni o non si mettono in filiera, in rete, è difficile che riescano a presidiare questi mercati. Da lì la potenza della Germania, che uno immagina che la Germania faccia tutto, ma dice che esporti alimentari trasformati più di noi e invece è nettamente più forte. Prego, Fortis. Qui bisognerebbe però anche precisare che negli alimentari trasformati bisognerebbe distinguere quelli a debole trasformazione, sì, che è vero, come, che come il latte eccetera, che ci hanno sempre visto anche per debolezza politica in Europa perdenti, e prodotti invece a più complessa trasformazione. Se si scindessero le due cose si vedrebbe in realtà che l'Italia nei prodotti come la pasta, i prodotti della panificazione, l'industria dolciaria è posizionata in maniera molto importante. Guardi, è vero, tant'è che ne abbiamo parlato anche quando durante l'Expo trasmettevamo da appunto in un'occasione dal Cibus, dal padiglione del Cibus. È vero che noi in realtà diamo maggior valore aggiunto a quello che trasformiamo, cioè trasformare latte il valore aggiunto è poco. Trasformare il latte in grana padano, parmigiano reggiano, il valore aggiunto è altissimo, quello che in più tu ci guadagni. Però detto questo, siamo sesti, la Germania è prima. E anche l'altra cosa che mi ha sorpreso, i prodotti in legno, perché il legno arredo non ho capito se venga contemplato completamente. Questo è un problema. Infatti, mentre negli altri settori c'è una distinzione tra le materie prime e i prodotti finiti, curiosamente questo è forse una debolezza di questo indice, mette insieme le materie prime che l'Italia non possiede assolutamente con l'export di mobili, quindi in questo caso la posizione italiana è nettamente sottostimata. In realtà l'Italia è il secondo esportatore mondiale e ha la migliore seconda bilancia commerciale del mondo dopo quella cinese. Soprattutto anche qui, come nel tessile abbigliamento, nei prodotti di alta gamma non c'è partita, l'Italia è decisamente il paese sempre leader, che ha forse solo nelle cucine un competitor come la Germania che le dà delle difficoltà, ma per il resto siamo posizionati ai livelli massimi. Allora, al di là del fatto che, lo dico a chi scrive, non me ne frega nulla se uno scrive renziano o non renziano, ma non capisco cosa ci sia di renziano, di filo governativo, nel dare merito alle nostre migliaia di imprese dei numeri che hanno ottenuto nel 2014 sull'export, a parte che non c'era neanche Renzi nel 2014, ma comunque non è in merito del governo, diciamola tutta, insomma, non è né merito né demerito del governo, si tratta di meriti o demeriti delle nostre imprese, dei nostri modelli di imprese, di impresa, di come si sono strutturate, della capacità che hanno avuto di presidiare mercati o non presidiarli, di unirsi, non dico fondendosi, ma almeno stando in rete, oppure di continuare a pensare che piccolo è bello e piccolo invece è solo piccolo e via così. L'ultima domanda che ho per lei è quella più di attualità, così chiudiamo dove siamo partiti. Siamo partiti sulla Cina e sulle previsioni di ieri della Banca Mondiale, rallentamento dell'economia mondiale. Oggi addirittura c'è chi, il numero uno della Fed di Richmond, se ho ben visto, adesso vado a riprendere l'agenzia, che dice non possiamo escludere un elemento recessivo nel 2016, poi giudizi molto diversi delle banche d'affari, ma al di là delle analisi, lei quanto teme questo rallentamento cinese? Perché oggi ha colpito in borsa soprattutto i titoli auto, ma nei giorni scorsi avevano perso parecchio i titoli del lusso. Lo teme a livello globale o lo teme a livello cinese? Perché noi non siamo così, è importante la Cina, però lei spesso ci ricorda come in valore la Cina ancora non sia, diciamo, un paese fondamentale per il nostro export. Ma io non credo che questa crisi cinese possa, diciamo, determinare degli effetti devastanti sul commercio estero italiano. Il vero problema è che più che altro tutto il rallentamento degli emergenti già da 3 trimestri ha trasformato quello che una volta era un contributo positivo che il commercio estero dava un po' a tutti i principali paesi manifatturieri, non solo a noi ma anche alla Germania, molto più che a noi, in un contributo negativo. Cioè, oggi i paesi europei, ma anche gli Stati Uniti, crescono soprattutto con la domanda interna. Se non comprendiamo questo, non ci rendiamo conto che ci manca un'importantissima leva di politica economica, e la tesi lungamente prevalente della Germania, secondo cui la cosa più importante è esportare tantissimo, essere competitivi per crescere, ormai fa acqua da tutte le parti. La Germania, nemmeno lei, cresce più con l'export. È importante, dà una bilancia commerciale attiva, e questo vuol dire avere più crediti che debiti verso con l'estero, ma una volta che abbiamo ottenuto questo risultato, il contributo al PIL del commercio estero con tutti questi emergenti fermi finisce con ridursi a livello negativo. Quindi è importante rilanciare la domanda interna, e qui purtroppo il vero elemento mancante alla politica europea è la forza di un piano Juncker, di un mercato interno. E chissà, io l'ho detto molte volte, poi non è che abbiamo fatto la puntata sulla Germania 31, l'abbiamo replicata per le vostre richieste ieri, la trovate sul podcast, non posso tornare a parlare di Germania, però chissà che, avendo delusioni anche sul suo export fuori dall'Europa, non si convinca che serve far rianimare, occorre rianimare il mercato interno dell'area euro. Grazie anche a Marco Fortis, a chi mi dice: ma come dimensione piccola e garanzia di super eccellenza? No, guardi, l'eccellenza la fa il piccolo, il medio e anche il grande, abbia pazienza. Ho detto che per l'export, se uno poi si limita al mercato interno, le dimensioni sono importanti, non serve solo fondersi, esistono piccole imprese che sono piccole e non nane, perché sono in una filiera positiva del valore, per cui sono fornitori di imprese medio-grandi che poi esportano. Non è che o stai in filiera, o ti aggreghi, o ti fondi, ma insomma restare da soli per andare in questi mercati non significa essere piccoli, significa essere nani, che è una cosa diversa. Grazie, è tutto per oggi, un auguro da Sebastiano Barigioni di buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.